mettere solamente se è per questo che non riesco a smettere, la mente la so scollegare solamente se ho cuffie in mano da indossare. È per questo che è la più grande dipendenza e non ricordo neanche un giorno che ho passato senza. Ho gli occhi stanchi perché vedono cose sempre uguali, se. Gli stessi colori, gli stessi volti strani, sempre. Le stesse espressioni, gli stessi pianti isterici, yeah. E sta realtà snervante ci rende tutti epilettici, yeah. Se dobbiamo fuggire ognuno trova il suo modo, se. Ho qualcosa nella gola e devo sciogliere sto nodo, yeah. Questa vita spara e ha infinite cartucce. La mia droga è musicale e si inietta grazie a cuffie, sì. Non guardarmi male, questa è la mia storia triste, sì. Che racconto come Omero racconta quella di Ulisse, sì. La mia consiste nell'aver visto cosa è giusto, cosa. Mangiamo merda tutti anche se è un cattivo gusto, sì. Cerco di andar dritto ma ci sono troppe curve, sì. Descrivo un mare in tempesta come curve, sì. Reduce, sì. Da battaglie perse qualcuna vinta, il suono che ti porta è nuovo, sì. Mica vinto, sì. Non riesco a smettere, la mente la so scollegare solamente se ho cuffie in mano da indossare. È per questo che è la più grande dipendenza e non ricordo neanche un giorno che ho passato senza. Non riesco a smettere, la mente la so scollegare solamente se ho cuffie in mano da indossare. È per questo che è la più grande dipendenza e non ricordo neanche un giorno che ho passato senza. Se preferisco essere vero, ci sarà un motivo, se. Non aspetto un miracolo, nemmeno un prodigio, no. Solo quello che conosco bene è quello che descrivo. L'opinione altrui la porti addosso come un vestito e spesso pesa, sto con la gente che non sei mai resa, ho solo la speranza nella lista della spesa. La nostra forza di combattere si è ritirata e la speranza che è ultima a morire si è suicidata. Giro con le rime in tasca e le tiro fuori sempre, in qualsiasi situazione, con qualsiasi gente. Scrive solo un'altra voce fuori dal coro. Ho il vizio di provare a farcela sempre da solo, ma prendo il volo se metto play e ciao. Mi sento un leone come Leslie, ciao. Non cago nessuno, tantomeno la massa. Non ti curar di loro, ma guarda e passa, yeah. Non riesco a smettere, la mente la so scollegare solamente se ho cuffie in mano da indossare. È per questo che è la più grande dipendenza e non ricordo neanche un giorno che ho passato senza. Non riesco a smettere, la mente la so scollegare solamente se ho cuffie in mano da indossare. È per questo che è la più grande dipendenza e non ricordo neanche un giorno che ho passato senza.